Ora che la direzione è corretta, avventurieri, dovete imparare ad usare con precisione la potenza del tornado. Il tornado è alimentato da 9000 joule di energia e il vostro viaggio durerà 1 ora e mezza. Quanta energia dovrete dissipare ogni minuto per arrivare alla capitale con esattezza, senza anticipare né ritardare l'arrivo?